Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. All'epoca ero una persona molto egoista, pensavo soltanto a me stesso. Oggi invece, ripensandoci, sto male per quello che ho scelto di non fare per lui. Se ripenso a lui sto male, mi sento davvero in colpa per quello che ho fatto, anzi per quello che non ho fatto. Fare, non fare le cose. La puntata di oggi di Linee d'Ombra è tutta dedicata alla ciglia. Quando ho avuto i miei 3 figli, ero piena di entusiasmo. Pensavo che mi sarei occupata di loro nel modo migliore. Le cose però sono andate diversamente. A parlare è una donna sudcoreana, si chiama Lee Jae-ye, è una maestra d'asilo. Mio marito dice va a lavorare la mattina presto e torna quando i nostri figli sono già andati a letto. In Corea del Sud non si fanno più figli. Il tasso di natalità in 50 anni è sceso da 6 figli a coppia a uno solo. Anche se il governo ha investito 120 miliardi di euro negli ultimi 13 anni per aumentare il tasso di natalità del paese, i sudcoreani potrebbero estinguersi entro il 2750. Tra i motivi del crollo delle nascite c'è una cultura del lavoro in cui abbondano gli straordinari e un sistema socio-economico fortemente maschilista. Il matrimonio e la gravidanza cancellano molte opportunità per le donne, che sempre più spesso decidono di avere pochi figli o di non averne affatto. La puntata di oggi è dedicata alla Cidia, racconta di un bullismo scolastico e di una giornata in un carcere. Benvenuti a Linee d'Ombra. C'è un film di qualche anno fa, si chiama Forza Maggiore, non ricordo più se è un film svedese o norvegese, tant'è, uno di quei film che vengono definiti indipendenti per il fatto che probabilmente sono prodotti con pochi soldi, ma hanno un'idea forte al centro, un'idea semplice, come spesso accade per idee semplici, un'idea che funziona moltissimo. È la storia di una famiglia che dal nord Europa va in vacanza a fare una settimana bianca sulle Alpi francesi. Un giorno sono su un terrazzo di un ristorante, stanno facendo una pausa dalla giornata di sci e vedono queste esplosioni controllate che fanno fare delle slavine, appunto controllate per evitare che le montagne si carichino eccessivamente di neve. Quindi per tutto l'inizio del film ogni tanto si sentono questi questi colpi sordi lontani che sono delle slavine controllate. Durante quel giorno succede la stessa cosa e tutta la gente che è sul terrazzo guarda, guarda, guarda la slavina, gente che fa foto, gente che fa video, solo che questa slavina evidentemente è un po' più forte delle altre, arriva e raggiunge di fatto la terrazza. Non la raggiunge completamente, quello che raggiunge la terrazza è solo polvere, ma a tutti gli effetti sembra che la valanga stia travolgendo tutti quanti. Quello che succede è che il padre di questa famiglia in vacanza, che è il padre con due figli e una moglie, semplicemente quando vede arrivare la slavina, per il terrore, scappa, se ne va, e se ne va da solo, senza aiutare la moglie e i figli. Quando però tutto quanto si quieta, quando la polvere della nave si è posata e tutte le persone che sono terrorizzate si riprendono, torna anche lui e succede che è successo qualcosa, chiaramente. Lui è scappato e li ha lasciati da soli. Quando torna nessuno dice niente, nessuno parla, ma per tutto il film sarà pervaso da questa atmosfera terribile di un uomo che ha fatto una cosa disdicevole e che per mettere in salvo se stesso non ha messo in salvo la propria famiglia. Questo è un tema molto forte di moltissime storie, cioè il tema del mettersi in pericolo per difendere qualcun altro dal pericolo. Nel film la cosa è ancora più sanguigna, è ancora più profonda, perché si parla di una famiglia, di un padre, di due figli e di un marito con una moglie, insomma di un uomo e della sua compagna. In generale però, quante volte ci siamo trovati in una situazione per cui non siamo intervenuti, vedendo qualcosa di brutto che succedeva dall'altro lato della strada, sulla banchina di un treno, all'interno di una metropolitana o in un ristorante. Abbiamo visto qualcuno che urlava, non siamo intervenuti a difendere quella persona, uomo o donna che fosse. Oppure a scuola siamo stati testimoni di gesti orribili nei confronti di qualcuno e abbiamo semplicemente guardato. Questo è un tema che ha a che fare con l'accidia, in qualche modo, con il vizio del non intervenire, del non agire. Ed è proprio per questo che oggi apriamo con una storia che ci ha mandato Lorenzo. Lorenzo, come spesso succede con le storie che ci arrivano, fa una grande confessione, fa un grande atto di confessione, cioè racconta un pezzo della sua vita che probabilmente non gli fa nemmeno piacere ricordare e che probabilmente non lo mette in luce, sotto una luce positiva. Lui lo ammette e ce lo racconta tutto, per filo e per segno. La puntata è dedicata all'accidia e la storia di oggi è la storia di Lorenzo. Ratto ratto che il tempo non si perda per poco amor, gridavan gli altri appresso, che studio di ben far grazia rinverda. Queste parole vengono pronunciate da un'anima condannata nel quarto girone del purgatorio dantesco, colpevole di accidia, ossia di inerzia, di indifferenza, di disinteresse verso ogni forma di azione e di iniziativa. È stata l'immagine di queste anime che corrono a perdifiato lungo la cornice, urlando esempi di sollecitudine e accidia punita, incitandosi a non perdere tempo per poco amore. Ecco, per questa immagine che oggi mi è venuta in mente quando il mio professore di matematica mi ha detto: Lorenzo, scusa, il mio vicino di casa, un ragazzo più o meno della tua età, calvo, un po' strano, ogni volta che lo incontro mi chiede se conosco un certo Lorenzo Tosi. In questo momento, guarda, mi sfugge il suo nome. Ruggero, dico io, leggermente scioccato. Non ho più avuto contatti con Ruggero, però spesso parlavo di lui anche con le mie vecchie professoresse delle medie. Ma quando il mio professore di matematica mi ha detto che Ruggero aveva chiesto di me, sono rimasto sorpreso, stupito, perché non mi sarei mai aspettato che Ruggero chiedesse ancora di me e avesse di me un buon ricordo. Io e Ruggero abbiamo frequentato gli ultimi 2 anni di scuole medie insieme. Era un ragazzo molto particolare. A guardarlo, se non lo conoscevi, faceva un po' paura, anche se in realtà era una persona buona, generosa. Se ripenso a lui sto male, mi sento davvero in colpa per quello che ho fatto. Anzi, per quello che non ho fatto. Era vittima di bullismo, proprio come me. Io e lui eravamo le persone più deboli all'interno della classe. E questo ha permesso a un altro ragazzo, sempre anche lui di nome Lorenzo, di attaccarci. Continuamente, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora. Non credo però che Lorenzo fosse una cattiva persona. Allora l'ho odiato con tutto me stesso, mentre oggi sono convinto che semplicemente non era una persona felice, che si sfogava sui coetanei, che sapeva che non avrebbero mai reagito, cioè me e Ruggero. Gli attacchi di Lorenzo erano precisi, freddi e spietati. Di me insultava, oltre che la mia famiglia, la mia persona, il mio essere. Mi ha sempre dato del frocio e questo mi ha segnato per un lunghissimo periodo. Finché un bel giorno mi sono detto: sì, sono frocio, anzi, sono gay. E allora? Mentre con Ruggero ci andava giù pesante, sul suo aspetto fisico, sul suo eccesso di peso e sulla sua calvizie. E io, in tutto questo, non ho mai fatto nulla. Non ho mai avuto la forza di oppormi a Lorenzo, di dirgli di smetterla, di fermarlo. Perché? Semplice, perché mi era comodo. Era bello che, almeno per una volta, il mio peggior nemico non se la prendesse con me. Anzi, a volte al coro di insulti contro Ruggero mi univo anche io. Mentre quando erano gli altri a prendersela con me, lui, finiti gli attacchi, mi si avvicinava e si metteva a parlare tranquillamente come se nulla fosse. Era questo il suo modo di starmi vicino e mostrare che era dalla mia parte. Alle medie ero molto diverso da come sono oggi. Ero molto più debole e mi lasciavo mettere i piedi in testa da tante persone. E questa cosa mi faceva molto male. Ero una persona molto timida, introversa, ero molto più debole. Una volta mi ricordo di avergli urlato in palestra questa frase: sei proprio un coglione, brutto leucemico di merda. Perché sì, Ruggero aveva la leucemia e io mi sono permesso di dirgli questo. Però, nonostante queste orribili parentesi, io e Ruggero a volte ci frequentavamo anche fuori da scuola, sia per studiare sia per passare un pomeriggio insieme. Sono stato l'unica persona con cui abbia legato in quei 2 anni. E nonostante questo, nonostante sapessi il dolore che provava, io non ho mai fatto nulla. In casi come questi, quando ci sarebbe stato davvero il bisogno dell'unica persona che chiamava amica, io non solo non c'ero, ma mi mettevo contro di lui. Eppure oggi chiede ancora di me. Non mi ha mai dimenticato e ho l'impressione che di me abbia conservato un bel ricordo. Il ricordo di un amico che in realtà io non ero. Perché non me lo merito. Sono stato una persona orribile e se potessi tornare indietro mi prenderei a schiaffi. Ho sbagliato a trattarlo così, ad essere così ipocrita, così indifferente, così disinteressato, così accidioso. Oggi però sono cambiato, sono cresciuto, sono maturato, sono diverso. Ho smesso di permettere agli altri di insultarmi e soprattutto, se una persona a me cara venisse insultata, non mi tirerei certo indietro. Per paura di cosa, poi? Di fare a botte? Di sfidare una persona che sembra essere più forte di me? Ruggero, se per caso mi stai ascoltando in questo momento, sappi che mi dispiace per tutto quanto. The bright horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Bright horses of wonder springing from your burning. Perché oggi probabilmente essere accidiosi significa anche questo, significa vedere delle cose brutte, violente, cattive e non intervenire. Non sempre siamo in grado di ammetterlo e di ammettercelo. Lorenzo invece lo ha fatto, non solo se lo ha ammesso, ma addirittura l'ha messo nero su bianco, ce l'ha scritto ed è al telefono con noi. Pronto, ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao Matteo. Grazie davvero per la tua storia, per il tuo racconto. E io partirei dall'inizio perché so che tu sei molto giovane. Quanti anni hai, Lorenzo? 18. Quindi quanti anni fa succedeva questa cosa? Sarà successo dunque 5-6 anni fa. E da allora tu Ruggero non l'hai praticamente più incrociato, mi sembra di capire. No, a dire il vero l'ho incrociato un paio di volte quando stavo andando a scuola a Monza, perché lui adesso vive lì. Ok. E ci siamo incrociati, ci siamo salutati, ma poi lui è andato per la sua strada, io per la mia. E come sta? Non hai idea? No, non ho più il suo numero di telefono. Non lo so. Nel senso che non, chiaramente vi siete salutati, ma non ti sei fermato. Non hai detto, sì. Ehi, come va? No. No. E ti dispiace un pochettino o hai la sensazione che sia meglio così, che ci sia un rapporto chiuso nel passato e che magari, chi lo sa, possa succedere qualcos'altro nel futuro, oppure no? No, a dire il vero mi dispiace tanto. E insomma, l'input per scrivere quello che ho scritto è venuto fuori dalla conversazione che ho avuto con il mio prof di matematica, perché sapere che Ruggero sta pensando ancora a me in questo modo, insomma, mi ha fatto scattare qualcosa. Quindi questa storia si capisce anche al fondo quando tu dici, insomma, se mi stai ascoltando sappi che mi dispiace moltissimo. È come se fosse una lettera a lui per interposta persona, cioè passi da linea d'ombra per arrivare a raccontare qualcosa a una persona che hai conosciuto tempo fa. Boh, sì, chissà se l'avrà ascoltato o se l'ascolterà in futuro. Lorenzo, tu dici a un certo punto, io sono proprio cambiato, dici, sono una persona diversa, sono cresciuto, sono maturato, ho capito delle cose di me, no? Quando tu stesso dici, sì, sono gay, ok, allora qual è il problema? Come lo hai capito? Cosa è successo? È stato un salto o è stato graduale? Beh, è stato graduale, frequentando anche ambienti diversi, e frequento liceo classico e comunque, insomma, non per dire, ma è risaputo che il classico è frequentato molto spesso da persone aperte di mente, da persone che rispettano le altre persone, cosa che invece non è così tanto comune alle medie. Insomma, questo nuovo ambiente, le esperienze che ho avuto, tutto quanto mi ha permesso di andare avanti e di cambiare. Ok, quindi probabilmente più che rispetto al tipo di scuola forse è una questione di età. Io ho frequentato un liceo scientifico pieno di gente orribile, quindi non era probabilmente solo il fatto che studiassero scientifico classico, probabilmente ci sono degli studi tecnici dove ci sono delle persone illuminate, forse semplicemente il fatto che cresci, che ti guardi intorno, conosci il mondo un po' meglio, aiuta tutti ad essere un po' meno degli imbecilli in generale, detto molto semplice. Ruggero, tu cosa pensi di fare da grande? Hai già una mezza idea, cosa vuoi studiare dopo? Mi piacerebbe studiare lettere moderne e poi fare il giornalista o lo scrittore, okay. Entrambi. Motivo per cui tu a 18 anni, cioè essendo un ragazzino, ascolti Radio 24, mi sembra evidente, cioè sei una mosca bianca assoluta. No, a dire il vero, Radio 24 l'ho scoperto grazie a una vecchia prof delle medie, che credo che, anzi sono sicuro che in questo momento ci stia ascoltando. Fantastico. E è stata lei che mi ha detto, ascolta questa radio perché è davvero bella. Mi piace davvero tanto e prova a mandare un racconto ed è quello che ho fatto. Tu pensa quanto sono importanti gli insegnanti in questo mondo oggi. Ringraziamo lei, ringraziamo davvero te, Lorenzo, per questa storia e chi lo sa che magari possa aiutare in qualche modo a ricucire un rapporto, se di ricucire, insomma, ce n'è bisogno. Grazie, in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie, ciao. Ciao Lorenzo. Le borse in diretta e poi torniamo qui a Radio 24. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E Linea d'Ombra è Radio 24, prima di continuare a raccontare storie, che è quello che facciamo tutti i giorni qui, grazie anche a voi, grazie al vostro contributo, continuate a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. rispondo a un messaggio di qualcuno che mi chiede qual è il nome esatto del film che citavo, in apertura, della famiglia in vacanza sulle Alpi francesi e del padre che scappa sotto la slavina, si chiama Forza Maggiore, facile, Forza Maggiore, è di 2 o 3 anni fa. La prossima storia invece è una storia che porta il concetto di bullismo che era presente nella primissima storia, quella di Lorenzo, lo porta all'estremo, perché non siamo in una scuola e gli screzi non sono violenze tra ragazzi. Siamo in un carcere degli Stati Uniti e mentre i detenuti sono al telefono a parlare con i parenti, uno di loro si aggira per il carcere con un foglio appeso al collo e quel foglio porta un messaggio di violenza potentissimo. Noi l'abbiamo letta su Vice, l'autore si chiama Aaron Ernst, ha 42 anni, ed è detenuto nel carcere di Faribault, nel Minnesota, dove sta scontando una pena da 6 a 10 anni per crimini legati alla droga. State con noi. Una sera di luglio ero al telefono con Taemi, la mia ragazza. Era una di quelle telefonate che sarebbe finita esattamente come tutte le altre. Mi sarei pentito di aver chiamato e basta. Era diventata la nostra routine, eppure mi mettevo in fila ogni sera e passavo metà dei 45 minuti a mia disposizione facendomi insultare senza tregua dalla persona che avrebbe dovuto amarmi. La stessa cosa accade anche ad altri compagni, prigionieri degli sbagli del passato. Non riusciamo a smettere di pensare a casa come ad un posto confortevole. Molti di noi sono invischiati in relazioni malsane e lo sono ormai da molti anni. Era una sera normalissima. Non c'era la luna piena, non era venerdì 13 e come ogni santo giorno faceva caldissimo. Nel carcere di St. Cloud in Minnesota non c'era l'aria condizionata e così, anche se oltre le sbarre tutti vedevano tutto, in cella stavamo in mutande, cercando di rinfrescarci la mente. Io e Taemi avevamo appena iniziato a parlare quando un tizio è entrato nella stanza con un foglio di carta appeso al petto. Io l'ho visto solo con la coda dell'occhio, non sono riuscito a capire cosa ci fosse su quel foglio e non ci ho dato troppo peso. Avevo notato che alcuni compagni stavano indicando il tizio con il foglio appiccicato sul petto e che la situazione si stava movimentando. Però dall'altra parte del telefono Taemi era di pessimo umore e mi stava ricordando che persona orribile fossi per la centesima volta. E così la mia attenzione era tutta focalizzata sui suoi bei complimenti. Pochi minuti dopo il tizio passa di nuovo vicino a me, questa volta però mi dà le spalle ed è rivolto verso le persone in fila. Non riesco ancora a vedere cosa c'è sul foglio. Continuo a parlare con Taemi. L'edificio dove sto io, B-House, è l'unità educativa e qui vengono mandati molti detenuti che devono seguire il programma di istruzione in carcere. Tra questi ci sono i ragazzi con disabilità cognitive e i giovani con problemi comportamentali che per qualche motivo non hanno mai finito le scuole superiori. Si crea un gruppo piuttosto interessante, con dinamiche curiose. L'uomo con il foglio di carta ne è l'esempio lampante. Si vanta sempre di essere leader di una gang, celebra continuamente le sue prodezze criminali, il codice del detenuto, la legge della strada. Ogni parola che esce dalla sua bocca riguarda quella volta in cui ha picchiato uno, derubato un altro o è riuscito a vendere droga con un metodo nuovo e straordinario. Passando nuovamente vicino ai telefoni, alza le mani al cielo come Muhammad Ali dopo aver sconfitto Fraser. Questo scatena una reazione ancora più accesa. Alcuni ridono, lo prendono in giro. Altri sobbalzano con quell'espressione in volto tipo «Oh no, l'ha fatto davvero». Solo un paio di loro sembrano veramente disgustati. Alcuni dal fondo della fila sono furiosi e inveiscono con gesti a me sconosciuti, penso linguaggio delle gang. Appena si avvicina di nuovo, mi volto in tempo per vedere che cosa sta sconvolgendo così tante persone. Appiccicato sulla maglia del detenuto c'è un foglio A4 e una foto a colori, a tutta pagina. È un uomo colpito da un'arma da fuoco in faccia. E non si tratta di una messa in scena hollywoodiana, questa è la realtà, in tutta la sua tremenda gloria. L'uomo nella foto è stato colpito in volto e al petto e poi appoggiato a un'auto parcheggiata. Il sangue gli esce a fiotti dalla testa, ha una gamba incrociata sotto il corpo. Gli occhi aperti sembrano fissare qualcosa oltre l'inquadratura. Ha l'aria di essere un ragazzino delle superiori, non ha più di 19 anni. A quanto pare quella era la foto che era stata usata dalla procura per accusare quel tizio di omicidio. E il giovane nella foto era la sua vittima. E ora eccolo qui, a vantarsi della sua accusa mentre gira per tutto il carcere con la foto appesa al petto come se fosse una medaglia all'onore. La scena è surreale. Alcuni detenuti lo incitano, alcuni anche più anziani di lui lodano il suo comportamento. I ragazzini, ancora assorbiti dalla mentalità della strada, lo guardano con ammirazione, si legge nei loro occhi. Da quel momento lui è il loro mito. È una scena straziante da vedere. Il misto di vergogna e di orgoglio violento che si scatena nella sala è imbarazzante. Ho visto tantissime cose tremende durante i miei anni in carcere. Aggressioni, abusi sessuali, estorsioni, uso di droga. Ma questa scena mi ha davvero colpito. È uno di quei momenti in cui ti fermi e rifletti. Non puoi credere ai tuoi occhi. Non può essere vero. Ho dedicato un pensiero alla vittima, ma anche a questo povero uomo avvolto nell'oscurità. Ho provato dolore per la madre che ha perso suo figlio quella notte, vittima di un gesto efferato, ma anche per la madre che ha perso suo figlio nella stessa notte, vittima di questo atto di glorificazione terribile del sistema. Ero senza parole. Stavo lì con il telefono che scivolava via dall'orecchio quando la voce di Taemi ha destato la mia attenzione. L'ho interrotta per cercare di spiegarle che cosa stava accadendo. La cosa la zittisce e rimaniamo entrambi in silenzio per un attimo, nei nostri pensieri, senza dire nulla. In quel momento entrambi ci siamo resi conto di dove mi trovavo davvero. Mi sono scusato per averla interrotta e le ho chiesto cosa stesse dicendo. Niente, mi ha risposto con una voce dolce. Ti amo, tesoro. I know I barely know you. We've only said hello. And there's some silent greeting I thought I saw you through. I know I'm rather quiet whenever you're around. I choke on all my words, I hardly make a sound. I know I must seem silly, just staring at my feet. Some dim and dusty corner where I'm swaying to the beat. And I know it's kind of crazy, the way you make me feel. Shades of gray in a color, you make the common so surreal. And yeah, I know you barely know me. There's no way that you could tell that you were summoned from my dreams. Zero wish called down well. And I know that you may doubt me when I say that you're the one that I've been waiting. Questa storia l'abbiamo letta su Vice, scritta direttamente dalla voce dell'autore, che è appunto è un detenuto del carcere del Minnesota. Continuate ad ascoltarci, ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E abbiamo aperto questa puntata di Linee d'ombra con la storia di Lorenzo, che è una storia di bullismo subito e di bullismo non sostenuto, ma diciamo quasi accidiosamente appoggiato, nel senso che Lorenzo ci racconta nel momento in cui veniva attaccato Ruggero, io non facevo nulla, addirittura ogni tanto mi attaccavo anch'io a quei cori contro di lui, mentre quando questa cosa succedeva a me, lui dopo veniva a parlarmi e cercava di sciogliere la tensione. Per cercare di capire qualcosa di più e cercare di capire meglio di questo argomento, di cosa accade nelle classi, ma non solo, abbiamo con noi una voce amica di Radio 24. Lui è psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore. L'ultimo suo libro si intitola La bussola delle emozioni, pubblicato da Mondadori, ed è Alberto Pellai. Pronto, ciao Alberto, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. È un grande piacere risentirti e averti qui con noi. Alberto, io vorrei chiederti due cose che sono ovviamente dei macro argomenti, lo so. La prima riguarda il bullismo in età giovane, insomma, nei ragazzi. La seconda invece riguarda proprio l'accidia in quell'età. La prima è, il bullismo è veramente aumentato negli anni o è semplicemente molto più rappresentato? Cioè, anche ai miei tempi a scuola c'erano gesti come quelli e le persone li subivano o li facevano, però non c'erano i telefonini, non c'erano i video, non c'erano i social a raccontarli. È veramente così o c'è stato un peggioramento delle condizioni? Ma penso che, come hai detto tu, di sicuro si sono amplificate le zone, le situazioni, le occasioni in cui un bullo può agire la sua prepotenza. Credo anche che un altro problema grosso che hanno i ragazzi oggi è che a volte davvero non sono stati allenati nel corso della loro crescita all'empatia. Essere empatici vuol dire sentire quello che sente l'altro e in qualche modo intuire anche la sua sofferenza. Fondamentalmente il vostro protagonista, che vi ha regalato la sua storia, ha proprio dentro questo, no? Era empatico con la sofferenza della vittima, gli è mancato però quello slancio di mettersi in gioco e provare un po' a cambiare la direzione dell'azione del bullo. Ecco, in questo momento probabilmente è più facile essere desensibilizzati e quindi è più facile non accorgersi di quanto sta male la persona che viene bullizzata. Quindi la vittima si trova nel ruolo di vittima, tutti pensano magari che è uno scherzone, nessuno si rende conto della sua sofferenza e questo nell'online è addirittura epidemico. Alberto, però esiste una forma di educazione all'empatia, cioè di educazione all'emotività, per cui se dico una cosa riesco a capire che quella cosa può fare male e quindi sentirmi male come la persona che sta patendo quell'accusa? Si chiama educazione emotiva ed è proprio la via di accesso principale in questo momento ai progetti di prevenzione, ai programmi di prevenzione che rivolgiamo ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, e significa proprio aiutare i ragazzi intanto a riconoscere le emozioni dentro di sé, che in un tempo che è così concitato, agitato, sollecitato da mille stimoli, rischia proprio di invalidare un po' la funzione del riconoscimento di ciò che provo, e quindi magari mi sento agitato, quella cosa la chiamo agitazione e invece è tristezza oppure rabbia, ed è importante che i bambini lo imparino. Esatto, allo stesso tempo poi in una dimensione più interpersonale posso progressivamente, per esempio giochi molto semplici, posso guardare 20 espressioni diverse di ragazzi e ragazze e mi chiedono che cosa sta provando lui in questo momento, che cosa potrebbe essergli successo, quindi certo, riesco a generare una connessione, un nesso causa-effetto, ecco, tra ciò che una persona sente e pensa e ciò che ha vissuto. E Alberto, poi davvero in un minuto solo, so che è poco, ma l'accidia nei ragazzi oggi è un problema, la pigrizia, la mancanza di voglia di fare delle cose? Ma guarda, credo che in realtà l'adolescenza è un tempo di grandi slanci, ma anche di grandi indolenze. Siamo stati tutti un po' sdraiati quando eravamo ragazzi, e quello di essere sdraiati e indolenti in realtà è far andare la testa e lasciare che progetti e individui il futuro. Devo anche dire che i ragazzi forse non sono molto sollecitati da noi adulti a mettersi in gioco. Se l'unica cosa che riusciamo a fare con Greta, per esempio, è prenderla in giro e massacrarla e nient'altro, uno si dice: ma perché da sdraiato devo diventare attivo e in piedi e darmi da fare? Insomma, c'è una grande responsabilità anche nostra, mi sembra di capire, dice Alberto Pellai. Alberto, ti ringrazio davvero per il tuo intervento e la chiacchiera che hai fatto con noi. A presto, in bocca al lupo. Grazie per tutto. A voi, ciao, ciao Matteo. Ciao, ciao, ciao. Oh, E nel viaggio illuminante che stiamo facendo, grazie all'amico che ci ha raccontato e che sta andando verso la fine, ahimè, che ci ha raccontato il suo percorso nella lussuria attraverso appunto la sua biografia, la sua vita passata attraverso il cinema porno, lui ci ha detto una cosa che davvero ha gettato luce su quello che noi cercavamo di immaginare legato alla lussuria. Lo sentirete tra poco, ma voglio partire da qui. La lussuria per me è tutte le volte che l'altro è un mezzo e non è un fine, quando l'altro non è il mio desiderio ma è uno strumento per soddisfarlo. Questa è la nostra storia seriale raccolta da Mauro Pescio e sta arrivando verso la fine. Quando mi hai contattato e mi hai proposto di raccontarti non solo i miei anni nel mondo del porno, ma anche il prima e il dopo, mi sono domandato cosa fosse per me la lussuria e se fossi la persona adatta. Al di là della mia storia personale, io direi che è lussuria tutte le volte che l'altro è un mezzo e non un fine. Quando l'altro non è il mio desiderio, ma è uno strumento per soddisfarlo. E nel porno è sempre così. La sua rappresentazione è la sua dimensione reale. Oggi il mio desiderio e il mio fine è quello di trovare il modo giusto per raccontare chi sono, senza giudicare chi sono stato. Queste sono le ultime parole che il nostro protagonista ci ha raccontato, che ha raccontato a Mauro e che quindi ha raccontato a noi e a tutti voi. E raccontare chi siamo è uno dei pilastri su cui si fonda l'identità di ognuno. Ma nel caso del nostro protagonista è necessario fare i conti con lo stigma sociale di chi è stato prima. Secondo la Bibbia, lo stigma è il segno che separa. Gli schiavi e i soldati portavano il nome del loro padrone o del loro comandante marcato sui loro corpi e c'erano addirittura alcuni devoti che si marchiavano con il simbolo dei loro dei. Ma più che un segno reale, lo stigma è un marchio apposto da un contesto sociale in virtù di un pregiudizio. Ogni stigma diventa un'idiozia da psicologia del branco, difficile da sostenere per la persona stigmatizzata, ma altrettanto difficile da estirpare dal contesto in cui attecchisce. Per questo, quando il nostro protagonista mi ha raccontato del suo desiderio di trovare il modo giusto per raccontare chi sia oggi, senza dover giustificare il suo passato, ho di nuovo domandato al filosofo Andrea Colamedici un suo approfondimento. Le macchie si fondano sulle storie che raccontiamo e sulla nostra capacità di mettere o togliere lo stigma. Quindi la pedofilia c'ha la macchia sopra e tu non puoi dire mi piacciono i bambini perché sei un pedofilo. Però ci sono tanti altri lati oscuri dell'essere umano su cui non c'è lo stigma, che sono invece socialmente accettate. Se ci fosse la capacità di considerare il ruolo del pornostar come un ruolo normale, come una professione, e non come qualcosa di oscuro e perverso, lontanissimo, se ci fosse la capacità proprio non di rendere più pop la pornografia, perché quello sarebbe comunque un errore, ma quello di riuscire a spiegare che ci sono delle persone che fanno un lavoro e che quel lavoro deve essere, come dire, oggetto di discorso, allora lì quella persona può vivere diversamente la propria macchia, ma quella macchia resta se resta nelle persone l'idea che quella professione sia una professione da stigmatizzare. La chiudiamo qui questa puntata di Linea d'Ombra, lasciamo la linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!